Il leone malato e la volpe, da Favole, Dicende la Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Ammalato, rintanato, il gran re degli animali comandò che a tutti i sudditi questo editto fosse scritto e proclamato, che mandasse ognuno in visita all'inferno un deputato, promettendo salvaguardia per l'insolita occasione, dalle zanne e dagli artigli, in parola di leone. Mentre sfila l'altre bestie in solenne comitato a far visita ufficiale al magnifico animale, troppo poco persuasa una volpe stette in casa, e si dice che dicesse: se guardate l'orme impresse nella polvere, vedrete che nessuno torna indietro, ad uno vanno tutti nella rete. Grazie tante, maestà, della grazia che ci fa, nella reggia ben si vede come possi porre il piede, non così come poi s'esca di lì. Fine della favola. Il leone malato e la volpe. Questa registrazione è di dominio pubblico.